Ciao, sono Teresa, vivo a Cava dei Tirreni, ho 56 anni e faccio la commessa anche se nella mia stessa attività. Da tanto che sono nel mondo dell'abbigliamento e ci sto bene, tutto sommato ci sto ancora bene nonostante la crisi.